l'union de le serpent na na na na na na na na De le. Ah, de le. Eh, mais perché sbagliato? C'est plus, eh, ben, en Suisse, c'est suisse français, hein. C'est suisse français. L'union de le serpent. Na na na na. Na na. Sono difficili di nanne. Nanne. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. No, guarda che cioè, hanno aggredito Tito. Infatti tu, se adesso improvvisamente parli, non so, di Chomsky, e non so, o piuttosto di, non so, di delle barelle che usano le guide alpine per portare giù i feriti, vedi, sì, che titolo non abbaia, vedi che se vai fuori tema. Ah, infatti stavo chiedendo, che non sta bene. Le barelle, l'hanno aggredito, un molosso l'ha cattivo, aggredito, allora, senza museruolo, un cane assassino che ha già ucciso altri due cani, ecco, uno Yorkshire e un bastardino. Sfogo. Ecco, allora la nostra solidarietà a Tito. Sì, però e anche a me, a te, perché io mi sono ferito per salvarlo e adesso poverino lui non mi guarda, mi ringhia e non mi vuole più bene. Quindi non so, questo è un giovedì che forse comincerei così e basta, finiamo basta così. Sì, che mi manca un po' Tito, com'era. Dove sei, Pochiche? Sei bravo cane. Sei povero cane. Sei cane. Sei mio cane. Sei mio cane. Scimmio cane. Sei un po' scimmio, perché puzza un po' di scimmia. A floppa, floppa, floppa. Pochiche. Floppa, floppa, floppa. Il mio Pochiche. Dov'è? Pochiche. Ma dov'è? Ma dov'è? Dov'è? Pochiche. Dov'è? Pochiche. Cappa, dobbiamo andare a ridiscutere il contratto. E tu fai queste cose. A me manca Pochiche. Il direttore mi dice, stiamo... Ma guarda che, ma il mondo di Pochiche era un momento così di... Ma vedrai di che abbandono, tornerà, anche tornerà. Per tutti i nostri amici che ci ascoltano, i commercialisti, i ragionieri, i sindacalisti, fiscalisti, quelli offshore, i psicanalisti, cosa si potrà dire? Beh, un psicanalista qua servirebbe, un psicanalista. Anche al cane. Pochiche, Pochiche. Credito non c'è. Quindi? Non lo so, non ci pagano. Facciamo una cosa, gli mandiamo una bella mail di quelle. Sì, io ho provato a telefonare e hai visto come è andata a finire. Non, tutto, non bisogna telefonare, perché lo sai, no? Scripta. Ecco, rimanent. Allora, forza con sta mail. Allora, adesso una mail, come dire. Se giochi col fuoco, poi finisce che ti bruci. Ma com'è? Ma a chi la scrivi? La scrivi al signor Wunderwaffer, no? Herr Wunderwaffer in persona. Sì, tipo uno di Roma, uno del quartierino. Herr Wunderwaffer. Cioè, non capisco. Drago, su, concentrati. Vabbè. Allora, finisce che ti bruci. Ma come finisce che ti bruci? Dai, poi perdiamo lo sponsor. Bisogna avere tatto, K. Dai, allora. Meglio perderlo che trovarlo. Allora, scrivi. Allora glielo diciamo un po', capito, in un altro modo. Non so. Si incazzano, telefonano, beccano me. E è un bel dire, è stato K. Cosa c'entra? Dai. Con educazione, dai. Allora, vado con la mail. Allora, caro, no, caro no. No, mica nostro amico, caro. Facciamo, vabbè, dettala tu, dai, io scrivo. Vabbè, dai, allora. Distinto, no, distintissimo, signor Wunderwaffer. Distintissimo. Magari mettiamo uno smile. Uno smile. Smile. Ma dai, ma che smile, allora. Esclamativo. Distintissimo. No. Sì, lei non sa quanto ci piacciono i Wunderwaffer, virgola, a noi due. Due. Così magari poi pensa che siamo iscritti alla raccolta punti. Distintissimo, com'era? Poi, distintissimo, virgola, dacci i nostri soldi. No, ma no, beh, potresti darci i nostri soldi? Ma è una mail di protesta, un po' più, insomma, devi essere anche argomentato, no, all'inizio. Protesta, adesso, dacci i nostri soldi perché ce li devi, tipo, no, no, però dobbiamo fargli capire, scusa, signor Wunderwaffer, com'è che uno come lei non ci paga, insomma? Cioè, questo dobbiamo farlo sentire un po', hai capito? Sì, ma mettiamo così, allora, uè, ma uè. Che c'è, allora? Uè, allora, qui pare che ogni volta, ogni spot, qui uno non può chiamare il centralino che è questo e quello. Insomma, uè, cioè, lo dico anche per lei. Ma questo cosa vuol dire? Cioè, non ho capito niente. Dai, dai, allora. Aspetta, allora, qui, cambiamo qua. Ma no, qui aspetta, uno ferma, non può neanche. Sembriamo, non so, Totò e Peppino o Troisi e Benigni. Non bestemmiare, no, drago, si può parlare, dai, adesso firmiamo la mail. Sì, però dai, senti, una chiusura qui decente. Uno non può, educata, quindi no? Allora chiudiamo? Così, così, va bene. Poi? Capo e drago, punto. No, cioè il senso deve essere capo e drago, due personcine per bene. Quindi vediamo, dai. Cosa vuol dire? Vabbè, vabbè, ma allora va bene così, che porcheria che abbiamo partito. Fammela rileggere tutta, dai, allora. Giusto per il gusto cose, dammi qui. No, l'ho mandata. No! Ma come? Ho mandato ma via. No, ma com'è possibile? Sei un deficiente, drago. Io? Ma se sei tu che l'hai mandato. Vabbè, ma tu dovevi dirmi di non farlo, no? Sto touchpad, avevo cliccato su rispondi. Vabbè, quindi, dai. E qui è andata, la mail è andata. E quindi? Non lo so, è una bella domanda. Ma mi è mandata così, con scritto questo e quello, we, wo, aule, aule, aule. No, we, wo, no, però we sì, allora capo e drago, punto. Qui, vabbè, allora non ci resta che... Non so. Che piangere. No, oppure non ci restano quei Wunderwaffer. Meglio piangere, dai. O ridere. Rido, sono un bambino, rido. Se piango dopo, rido, perché non ho pensieri. Rido, vado all'asilo, rido, vado all'asilo, rido. E questo è il mio mestiere. Rido, mi chiamo Alberto, rido. Faccio un casino e rido. E quasi un mio dovere. Rido, è il suo mentore. L'altro ieri in TV si è verificata una circostanza raccapricciante, dobbiamo segnalarlo. L'altro ieri, l'altro generalmente ieri. In TV invece... Però l'altro ieri, scusa, chi si sintonizzava su Rai 3 in seconda serata poteva vedere una scena surreale, cioè Fabio Volo e un signore con i capelli bianchi che discutevano pacatamente intorno a un tavolino rotondo bianco. In un ambiente molto sobrio. Con l'Oden tutti e due. No, no, non era da Monti, era in un ambiente un po' scientifico, asettico, un seminterrato buio, pieno di scaffali metallici in stile caserma dei carabinieri. Vabbè, una cosa surreale, cos'è per il bianco? Vabbè, che Fabio Volo generalmente con le sue amiche attrici fa il gigione. Una volta che parla con un vecchio è un po'... Un vecchio però non è un vecchio qualsiasi. Quello era Noam Chomsky. Anzi, era... Noam Chomsky! Come? Il più influente intellettuale di sinistra del mondo con Fabio Volo? Sì, però per fortuna quando uno è un vero intellettuale riesce a esserlo anche parlando del più e del meno con un ex panettiere diventato star. Senti cosa dice, ci dà ragione su tutto. Ma chi? Chomsky? È interessante il modo in cui la propaganda funziona sugli uomini. Questo è Chomsky? Beh, sì, quello ci sotto, sono molti studi. Italiano, no? Da qui emerge che la maggior parte degli spettatori sono persone attorno ai 50-60 anni. Adulti, quindi. Ma la qualità delle trasmissioni è infantile. Ma non solo la televisione, Chomsky, anche la radio! No, no, Chomsky, Volo. Ah, Volo. Vabbè, insomma, una bella battaglia. Cos'è il Barcellona? Ah no, il Carnevale di Rio. Gerriu. Sì, un po' in ritardo però. No, sì, però so dire, non è il momento giusto. Siamo in quaresima, infatti, cioè quasi a Pasqua. Tu adesso tiri fuori il Carnevale di Rio. C'è donna nuda? Eh sì, non va bene. Ma sospendo il telefono. Niente, il telefono touchpad. A risentirci, a domani. Ancora, ancora. 16:45. Ibelo. No, questo Ibelo non va bene. Con Chiedo Asilo, l'infantilismo alla radio. Buona pace di Chomsky. Ciao Chomsky.